La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. In studio Maurizio, benvenuti per un nuovo appuntamento in vostra compagnia. Un abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, numerosi come sempre. Ma siamo anche in compagnia di Raffaella Milandri per il suo nuovo appuntamento con Nativi Americani, ieri e oggi. Siamo già arrivati alla quarta puntata. Tra l'altro Raffaella Milandri è già in linea e tra poco inizieremo a parlare con lei e vedere dove ci porta nella giornata di oggi. Voglio solo ricordarvi che Nativi Americani, ieri e oggi, è un format che va in onda su Radio Talpa il venerdì alle 17:30 ogni due settimane. Questo vuol dire che la settimana successiva ascolterete la replica e poi subito dopo trovate il podcast non solo di questa trasmissione ma anche di tutti gli altri appuntamenti con la nostra Raffaella Milandri. E allora a questo punto diamo pure la voce a Raffaella, ben arrivata, e di cosa ci parli oggi? Salve Maurizio, salve a tutti gli ascoltatori, questa è una puntata particolare perché appunto parliamo di musica, parliamo di musica nativa americana. Cercherò di parlare poco per lasciare lo spazio alla musica. Prima di tutto, parlando di musica, occorre ricordare che nella tradizione nativa americana un artista è tale per l'ispirazione degli antenati e del creatore, e quindi uno scopo importante degli artisti è mettersi a disposizione per portare stimoli positivi alla gioventù nativa, quindi c'è una missione morale anche nell'arte e quindi nella musica. Parliamo velocemente di musica tradizionale, cioè quindi la musica tradizionale dei nativi ha alla base il canto e le percussioni, quindi la vocalizzazione è molto importante e dà molte forme, come anche le percussioni, che sono in particolare i tamburi e i sonagli. Quindi normalmente le performance sono accompagnate, ecco, da cantanti, suonatori di tamburi e da danzatori. I testi normalmente comprendono sia brani pubblici che canzoni segrete, che si dice che siano antiche e immutabili, cioè quindi utilizzate solo per scopi sacri e cerimoniali. E un concetto comune a molti gruppi indigeni è la fusione tra musica e potere. Ad esempio, i Pima ritengono che molte delle loro canzoni siano state date all'inizio e cantate dal creatore. La musica nativa americana nella sua fase contemporanea usa soprattutto l'inglese e strumenti musicali moderni. E iniziamo il nostro tour con, diciamo, alcuni di quelli che sono gli artisti più famosi in assoluto. Quindi iniziamo con i Redbone. I Redbone sono un gruppo messicano nativo americano nato negli anni 70 con i fratelli Pat e Lolly Vegas, di origini messicane Yaqui Shoshoni. E raggiunsero la top 5 della classifica statunitense Billboard Hot 100 nel 1974 con il loro singolo Come and Get Your Love dall'album Wovoka, che è diventato poi come singolo un disco d'oro e ha venduto oltre 1 milione di copie. Ecco, andiamo ad ascoltarlo, teniamo presente che è uscito recentemente alla ribalta perché è apparso nella serie di film Marvel Guardiani della Galassia, e quindi lo abbiamo sicuramente ascoltato, ci è capitato di ascoltarlo recentemente. Ecco i Redbone. Yeah. non possiamo non parlare di Buffy Sainte-Marie, nata Beverly Jane Santa Maria, che è una cantautrice, musicista, attivista sociale americana molto famosa, che ha ottenuto riconoscimenti, premi, onorificenze e così via. Solamente che ultimamente c'è stata questa grande polemica perché si è scoperto che le sue origini sono praticamente italiane e inglesi e non native. E quindi c'è stata questa grande polemica e la comunità nativa, sia canadese che statunitense, insomma, praticamente cioè, c'è stata una sorta di ripudio, se vogliamo, da parte di molti, non di tutti, ma perché molti nativi hanno detto ok, va bene, però lei è vissuta, lei in realtà è stata cresciuta in una famiglia nativa, no? E quindi, però qualcun altro ha detto, insomma, ecco, lei ha sfruttato questo discorso del nativo per avere fama, successo e soldi. Quindi si è passato dal 100 anni di tempo, si è passato dall'orrore di essere nativo invece al fatto di incensarsi, di essere nativi a fini di lucro, fama, successo e così via. Ma comunque, lasciamo ai posteri l'ardua sentenza e diciamo che ha vinto l'Oscar come migliore canzone originale nel 1983 con Up Where We Belong, che è stata scritta da lei, ma anche da Jack Nitzsche e Will Jennings. E ascoltiamo la versione da lei cantata. Today, love lift us up where we belong. where the clear winds blow. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, far from the worlds we know, up where the clear winds. E una famosa cantautrice di talento di origine Cherokee è invece Rita Coolidge, che ha saputo fondere le sue radici native americane con generi come il pop, il rock, la musica country, e veramente insomma vanta una notevole illustre carriera. Uno dei successi che sicuramente avrete sentito, vi è capitato di aver sentito, è proprio We Are All Alone. Outside the rain begins and it may never end, so cry no more on the shore, a dream will take us out to sea. Eyes and dream, and you can be with me. Neath the waves, through the caves of ours, long forgotten now. We're all alone, we're all alone. Close the window, story's told, it can't help but grow old. Roses do, lovers too, so cast your seasons to the wind and hold me dear. Oh, hold me dear. Close the window. Allora, concludiamo con un altro mito musicale, insomma, recentemente scomparso. Quindi diciamo, ci siamo mantenuti sempre tra gli anni 70 e gli anni 90 più o meno, anche se sono stati, se sono artisti tuttora che fanno in tour, che tuttora insomma, fanno concerti e così via. Diverso invece è per la storia per Robbie Robertson, perché lui è recentemente scomparso ed è stato il chitarrista principale di Bob Dylan tra la fine degli anni 60 e l'inizio della metà degli anni 70. Quindi è stato chitarrista e autore di canzoni con The Band fino al 78, poi artista solista. Diciamo che lui è proprio stato uno dei creatori, insomma, un po' del genere musicale. È stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame e nella Canadian Music Hall of Fame, sia con The Band con cui ha suonato che da solo. E Rolling Stones, la rivista, lo ha posizionato al 59esimo posto nella lista dei 100 più grandi chitarristi della storia della musica. Andiamo decisamente adesso quindi su delle sonorità diverse, in quanto questo pezzo è in lingua nativa ed è Peyote Healing. Which on the Non possiamo mancare di aggiungere una nota al fatto che appunto Robbie Robertson, che è stato sempre un compositore preferito di Scorsese, insomma, ecco, ha curato la colonna sonora di Killers of the Flower Moon. E poi magari, ecco, vediamo magari un'altra puntata di ascoltare qualche pezzo. Per oggi siamo giunti al termine di questo splendido viaggio sonoro. Siamo tornati davvero indietro con gli anni. Abbiamo avuto, grazie a Raffaella Milandri, la possibilità di ascoltare e conoscere, perché anche il sottoscritto non conosceva, i Redbone con il loro hit Come and Get Your Love, un brano funky rock classico degli anni 70, decisamente accattivante. E poi chi non conosce Buffy Sainte-Marie con il brano Up Where We Belong, un brano sempre piacevole da ascoltare. E a proposito di Buffy Sainte-Marie, scopro oggi che non ha una discendenza nativa. Io, in un recente programma in cui ho inserito vari artisti nativi dopo i miei viaggi in Canada, l'avevo inserita di brutto, appunto, tra le grandi star della musica nativa americana. E poi la grande Rita Coolidge con We Are All Alone, e infine Robbie Robertson, un mio idolo fin dai tempi di The Band, tante bellissime canzoni, un grandissimo chitarrista ma anche scrittore e cantante. E grazie a Raffaella Milandri oggi l'abbiamo ascoltato con Peyote Healing. Un viaggio che a mio avviso dovrebbe continuare, perché la musica dei nativi americani sta riscuotendo sempre maggior consenso negli Stati Uniti e in Canada, dove la musica dei nativi americani non è più relegata al ristretto cerchio di stazioni radiofoniche che trasmettono musica dei nativi, ma addirittura nelle grandi stazioni commerciali, proprio perché sta riscuotendo un grande successo. E allora, Raffaella, ti chiedo di preparare almeno altre due trasmissioni, sia sulla musica contemporanea dei nativi, sia poi sulla musica tradizionale. Ringraziamo ancora una volta Raffaella Milandri per il suo format Nativi Americani ieri e oggi. Vi ricordo che questa puntata la potete ascoltare in replica venerdì prossimo, sempre alle ore 17:30, sempre su radiotalpa.it, e poi a seguire potete ascoltare il podcast sia sul sito ufficiale di Radio Talpa sia sulle varie pagine di Raffaella Milandri, che poi lei stessa vi illustrerà, e naturalmente sui social e sulle piattaforme come Mixcloud e Spotify. Ancora un abbraccio a tutti quanti voi da Maurizio Benvenuti e Raffaella Milandri, e grazie per aver, come sempre numerosi, seguito il percorso sonoro di questo format. Ciao a tutti e risentirci presto. Avete ascoltato Nativi Americani, ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.